mosca a Varsavia, Buda Settino, il fuoco brucia già. Viva l'Europa libera, viva l'Europa grande, Europa nazione, nazione sarà. Parigi, spezziamo le catene, gridiamo libertà. Americani a casa, compagni nella steppa, Europa, nazione, nazione sarà. Risorgi Europa, risorgi sul mondo, risorgi più grande, risorgi con noi. Nella tua nuova storia c'è scritto già vittoria, Europa, nazione, nazione sarà. Che si alzano in alto insieme a una bandiera, i giovani d'Europa uniti in un sol coro, Europa, nazione, nazione sarà. Risorgi Europa, risorgi sul mondo, risorgi più grande, risorgi con noi. Nella tua nuova storia c'è scritto già vittoria, Europa, nazione, nazione sarà.